been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Eccoci qua, ore 21 e 28 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Una Roma particolarmente spettrale è quello che mi si è presentato alla vista per arrivare qui in San Lorenzo. Un senso di vuoto e anche di malinconia, se vogliamo, ma comunque, vabbè, siamo qui. Disorder anche per oggi, dunque 9 marzo del 2020. Disorder andrà avanti sino alle 23 circa. www.ondarossa.info per quanto riguarda il nostro streaming. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling. Ricordo il radio abbonamento che si può fare andando sul sito di Radio Onda Rossa, cliccando sul banner specifico e scegliere la modalità più adatta. 30 euro per 1000 ascoltatori, una campagna di crowdfunding che andrà avanti fino a maggio. Intanto noi andiamo a salutare Lorenzo qui a Roma, come qui a Roma Daniele L. Bond Records, il buon Claudio di Pane, Claudio Orlande di Pane, progetto romano, Doriana Panico da Taranto, Nicola Locci in quel della Sardegna, Stigmate, lo ricordiamo, Stigmate, insieme a Maya, Lupsi nella persona di Lucia Cagliazza ad Udine, Enkil, anche lui valente musicista di aria sperimentale, credo da Alessandria. Qui a Roma il medico della peste, e a Firenze Antonio Zoviet. Jean-Claude Berto ci sta ascoltando invece dalla Val d'Aosta. Iniziamo da questa retrospettiva riguardante Ataraxia che stiamo facendo da un po', e da un paio di settimane stiamo un po' risentendo Arazzi, che era uno dei primi lavori, il terzo se non erro, andrò a vedere, del 1991. Eh sì, era il terzo lavoro che uscì nel 93, anzi per l'esattezza, attraverso l'Energeia in versione di nastro e di album, e poi stampato tanti anni dopo attraverso la Twilight Records. Etichetta argentina che ha stampato molti lavori del panorama italiano. I Killian Camera, per esempio, si sono rivolti parecchio a questa etichetta. E dunque Arazzi naturalmente si muove come gran parte della carriera di Ataraxia tra neofolk, atmosfere martial, gothic, medieval, e questa sera è il turno di Acquarello. e nonostante le incertezze della registrazione, in quanto è estratta da un nastro, perché anche sul nastro uscì questo vecchio lavoro di Ataraxia nel 1993, nonostante ciò ritengo che permanga il fascino misterico, medievaleggiante, neofolk, New Marshall di Ataraxia, progetto a metà tra Modena e Reggio Emilia, con le incredibili doti vocali di Francesca Nicoli. Da questo Razzi ci siamo ascoltati Acquarello, una lunga composizione per questo lavoro che sentiremo per l'ultima volta la prossima settimana, il prossimo lunedì. Buonasera anche al maestro Eloquence Recycle, del quale più avanti andremo ad ascoltare naturalmente qualcosa di H501L. Mi sono ripromesso di andare a scandagliare in maniera retroattiva tutta la carriera di questo interessantissimo musicista romano, anche perché vedo che si gradisce la cosa e quindi sono ancora più incoraggiato a farlo. Per adesso invece ci andiamo in Francia con un musicista che in parte riprende questo modo di intendere la musica. Sto parlando di Spirit di Jean-Luc Fouchot. E ci andiamo ad ascoltare un qualcosa sempre da Sous Emprise, un lavoro uscito sul finire del 2019. Saluto anche Ernesto e Giuliano della Black Cat. Jean-Luc Fouchot, dunque, i suoi Spirit. E da questo Sous Emprise, anche per questa sera, due brevi passaggi: Naya Dance e Dérive Nocturne. Anche per questa sera ci siamo soffermati su questo ultimo lavoro per il francese Spirit, Jean-Luc Luchot, ricordo. Si chiama Sauce and Price, un album che, per chi volesse, chi fosse interessato più che altro, se si va sul profilo Bandcamp di Spirit si può anche scaricare in free download. Album dalle sonorità a tratti anche tribali ed etniche, come in parte lo è stato, già che è una fonte di ispirazione per esempio da Deck and Dance, al quale bene o male si ispira anche Spirit. Risaluto Ernesto e Giuliana della Black Cat qui a Roma, come Paolo e Antonella. E mentre sentivo questi spiriti mi sono anche venuto in mente un altro progetto che forse chi sta all'ascolto ricorderà in qualche modo, un altro progetto che si ispirava sempre all'epopea del Candenza, e sto parlando di Rajna, anche loro francesi, ancora più etnici, a tratti anche ricordavano atmosfere quasi da tibetane. Rajna, dunque, chi, per chi non li conoscesse li consiglio caldamente, dei fratelli Lefebvre, non so se esistono ancora. Spirit peraltro ha fatto molti lavori, come si può anche arguire per l'appunto nel profilo Bandcamp, che consiglio veramente di andare a vedere. Ernesto ricorda anche i bulgari Irfan, ottimi, visti anche dal vivo un paio di anni fa in Germania, molto interessanti devo dire. E da queste note così celestiali torniamo ancora e di molto indietro nel tempo e ci andiamo un po' a sentire la storica wave italiana, sfruttando di nuovo Gatorade, una compilation che uscì nel 1982 e in ristampa attraverso la Spitter Records nel 2007. Tanti nomi in questa compilation, nomi che in parte sono anche abbastanza sconosciuti. Si scelse di privilegiare, diciamo, appunto quei nomi un po' più nascosti, tenendo anche conto che eravamo all'inizio degli anni Ottanta, e quindi era anche molto più difficile la diffusione di questo tipo di dischi, di suoni, di atmosfere. Comunque, i primi che ci andiamo ad ascoltare in realtà sono tra i pochi gruppi effettivamente noti. Sto parlando dei Not Moving, che allora operarono una fusione azzeccatissima tra garage punk e appunto new wave. E poi i Blauwreiter, ancora più nascosti rispetto ai Not Moving. Quindi sta a partire Baron Samedi di Not Moving, e poi A Correct Adulation of Himself di Blauwreiter.